Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto e un augurio di buone feste da Marta Cagnola. Tornano gli appuntamenti con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena di oggi è quella di un cantante italiano famosissimo anche all'estero. È nato a Catania nel 1971. Figlio d'arte, inizia giovanissimo la gavetta in giro per l'Italia e come turnista negli studi di registrazione. La svolta arriva nel 2004 con This Is What You Are, singolo che si impone a sorpresa sulla BBC One e in tutta Europa. Nel 2006 esce il suo primo album, Handful of Soul. Nel 2016 festeggia un'attività discografica fatta di numeri uno con l'album Best of Soul. Con noi oggi Mario Biondi. 10 anni di carriera. Solo 10 anni? Cioè, l'impressione è che siano molti di più. Ma è un'impressione anche mia, visto che sono 30 quelli che giro per piazze, locali, clubs, chi più ne ha più ne metta, insomma, sono esattamente 30 quelli di carriera musicale, ma 10 che, grazie a Dio, sono quelli discografici, perché anche quella è una parte che ha preso una grande importanza per me nella mia vita. Però solo 10 anni discografici significa che sei entrato nell'immaginario, nella sensibilità del pubblico, come se tu fossi un veterano delle scene, lo sai? Beh, un po' secondo me anche grazie a questi 20 precedenti, a questi 10, perché già scrivevo, già facevo delle cose, di dischi preparati e non mai sentiti, ce ne ho tanti. Ho fatto tante cose anche nella dance, no? Tanti dischi mix, questi 12 pollici da DJ, ma poi soprattutto credo che sia proprio la parte dal vivo che ha dato questo effetto. Ma io questo lo conosco da un bel po', eh sì, perché, ma cavoli, ma io ti ho visto a Siracusa nell'89 al Tuva. E faccio sì, effettivamente ero io. Ah, ma allora vedi, mi ricordavo bene. È bello perché poi durante questi 10 anni ho rincontrato, non dico tutti, ma tantissimi tantissime persone che hanno fatto parte della mia vita dal vivo. Stai raccontando la storia di una carriera completamente diversa da quella che si immaginano i ragazzi adesso, che a 20 anni fai un talent o sei su YouTube e diventi famoso. Stai raccontando tutta un'altra storia tu. Ma sì, ma anche perché poi, vabbè, diventare famosi non si sa mai quanto sei famoso e quanto non lo sei, no? Soprattutto all'inizio, perché cioè, uscire da un talent show e avere una grande soddisfazione è un inizio, non è l'arrivo, quello è l'arrivo dell'inizio, cioè, non so, la partenza dell'inizio, come si può dire? È proprio the beginning, l'inizio, basta. Sì, beh, sicuramente la mia carriera è molto, molto, quanto di più lontano da questo. Mi sento un anziano, perché posso dire di aver fatto migliaia di matrimoni, per esempio, credo di averli fatti. Cioè, credo di aver fatto centinaia di migliaia di serate, di piano bar, di musica dal vivo, con la band, in duo, in trio, in quartetto, in quintetto, in sestetto, con l'orchestra. Cioè, per fortuna, anche se in certe occasioni ovviamente l'ho pure maledetta questa cosa, ho fatto di tutto e ho portato anche a compimento certe cose, cioè non è servito tutto. Take me up and let me down, hold me when I'm sad. Take my eyes to look around, take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall. Mario, come si festeggiano questi 10 anni? Intanto, Best of Soul. Quando io ho letto il titolo detto, beh, è un classico, si fa un best per Natale con i più grandi successi, e invece poi ci hai spiazzato tutti perché ci sono 7 brani in più, e non è normale, perché di solito quando si fa un best se ne mette 1, 2. Guarda, io ho sempre sentito, soprattutto nel mio ambiente, nell'ambiente musicale, ho sempre sentito parlare molto male dei discografici. Raramente ho sentito parlare bene, devo dire la verità. Io personalmente posso testimoniare che, malgrado qualche brutta esperienza all'inizio della mia carriera, posso dire di aver avuto un'esperienza discografica molto, molto felice. Dalla produzione con Renato Zero alle produzioni con Bluey dell'Incognito, quindi poi il passaggio alla Sony Music, per me sono stati passaggi molto interessanti. Cioè, perché mi dici ciò? Perché credo che i discografici con i quali collaboro siano delle persone molto intelligenti e anche rispettose del pubblico, perché aver pensato a un progetto come Best of Soul per celebrare, ovviamente dovevamo, era un must celebrare il decennale di questo progetto, di questa mia carriera. Ma il must non è stato l'idea di lucro fine a se stesso, capisci? È diventato veramente una celebrazione dove all'interno c'è un progetto intero, e tant'è che uno dei brani proprio del progetto si chiama Gratitude, è il brano che è celebrativo, cioè fatto ad hoc per questa cosa, per questo evento, per questa occasione, e per ringraziare, proprio esternare la mia gratitudine al pubblico e a tutte le persone che hanno fatto di me quello che sono oggi in questi 10 anni, e non solo in questi 10 anni, forse in tutti i miei 30 anni di carriera. Gratitudine, grande amore e anche la voglia di spingere a non smettere mai di sognare. C'è un mood in questi 7 brani, mi sembra abbastanza comune, è il tuo spirito adesso? Ma devo dire, in alcuni casi è anche casuale, perché non è sempre tutto così matematicamente studiato. Sicuramente è sempre stato così nella mia vita. Anzi, il peso di queste cose, devo dire, comincio a sentirlo più adesso, perché malgrado possano sembrare dei pregi, sono anche dei grandi difetti, perché mantenere la coerenza o comunque amare un certo tipo di cosa costa tantissimo, costa tanto sacrificio e tanta rabbia, tanta disperazione anche. Stop, look and listen to your heart. Do you feel like I feel? I wanna make the church bells sing. Do you feel like I feel? I wanna let all freedom ring. Oh, baby, do you feel like I feel? I wanna give you everything. Do you feel like I feel? I wanna let all freedom ring. Stop and listen to your sweet little sister. Dal vivo si parte il 6 marzo da Genova, si gira fino al 24 aprile. Hai parlato di una festa, perché? Perché sì, perché la festa bisogna farla, perché sono 10 anni, 10 anni, io voglio la torta, cioè non voglio fare un ma in tutte le date? No, voglio la torta. Una data, una torta, no, sempre? No, sì, no, no, poi divento, già sto ingrassando, poi divento 200 kg, mi dicono guarda, sembra Barry White, e no, ma non posso, no, no, no, è una cosa che non posso permettermi. Però una torta, una, con un recipiente grande, non parlo di, cioè parlo di una struttura grande che ci possa permettere di invitare tanti amici, quello ci vuole, e secondo me bisogna farlo verso la fine di maggio. 10 anni di carriera discografica, 30 anni di carriera, quando ti concederai finalmente di essere un ragazzo, visto che hai cominciato da subito? Questa mi fai venire la lacrimuccia. No, no, vabbè, sicuramente lo sono stato, dai, sono riuscito a essere anche ragazzo, ho avuto la fortuna anche di frequentare posti meravigliosi come Lampedusa, nei quali ho sicuramente dato sfogo alla mia gioventù, avevo poco più di 20 anni, quindi insomma sì, forse 28, 25, sì, ho iniziato lì a godermi un po' la vita, ma anche forse anche prima, dai 17, 18 anni, in una Catania che mi permetteva di guidare ogni tanto col foglio rosa, ancora senza patente. Mi ricordo un carabiniere che mi fermò, diceva il foglio rosa, mi disse: ma dove vai? Ma volevo fare un giro, attenna a casa, va, prendi la patente, non puoi girare in macchina. Cioè, qualche bravata da ragazzino l'ho fatta anch'io. No, no, no, sì, sono anche un ragazzo. Ma poi c'ho tutto questo gruppo di giovani che mi accerchiano, che sono 8 i miei ragazzini, 4 maschi e 4 femmine, che mi portano spesso a essere bambino, mi riportano un po' a essere più ragazzo. Grazie a loro mi rispecchio, mi ritrovo. Buona festa allora, grazie. Grazie a voi, a te. Grazie mille. Ed è tutto per l'appuntamento di oggi con Voci in Scena, insieme a Mario Biondi. Ancora un saluto da Marta Cagnola.